Siamo col direttore artistico del Sant'Arcangelo Festival, che si terrà dal 7 al 16 luglio. E lo slogan di quest'anno è Enough Not Enough, che si potrebbe tradurre con abbastanza non abbastanza, anche se abbastanza riduttivo appunto. Perché questo slogan? Prima di tutto l'abbiamo usato la frase inglese perché secondo me ha più significati, più sensi di quanto questa traduzione italiana. Sicuramente Enough Not Enough un po' riguarda questo momento nella storia in cui siamo, in cui da un lato ci sono tante le cose che sono troppo, che c'è tutta questa overproduction, il capitalismo neoliberalista, la necessità di lavorare, di investire troppo tempo alle regole, diciamo, del mercato. Dall'altro lato ci sono tantissime cose che ci mancano: la cura, la sensibilità, la libertà, i spazi di condivisione, eccetera eccetera. Allora a noi ci piace, con questo slogan, seguendo un po' le ricerche delle artiste e degli artisti invitati al festival, a chiedere chi viene a stare con noi a farsi questa domanda: cosa abbiamo troppo, cosa ci manca, cosa vogliamo cambiare, dove sono i momenti in cui noi personalmente siamo in grado di dire no, cioè io questa cosa non l'accetto più, non posso accettarla, non posso essere la parte di questa realtà, perché credo che il sentiero, che il mondo in cui viviamo non è quello che vogliamo, è sempre un punto di partenza per un cambio. Questo cambio secondo noi parte sempre da basso, non dall'alto. Allora per questo ci fa piacere di fare questa domanda: dove vogliamo andare, con chi vogliamo andare e cosa siamo in grado di fare per arrivare lì dove vogliamo. Quali sono, diciamo, le tematiche affrontate quest'anno? Immagino ci sia anche continuità rispetto all'anno scorso, visto che è il secondo anno. Sì, certo, la continuità è, sì, cioè io la vedo molto. Sicuramente tornano le tematiche, diciamo, più importanti per il festival dell'anno scorso, come la prospettiva femminista, l'antirazzismo, la prospettiva postcoloniale, anticapitalismo, queerness, cioè tutti questi elementi fanno la parte della ricerca negli arti performative d'oggi e sono molto presenti anche nelle pratiche dell'artista invitati. Quest'anno sicuramente abbiamo anche più tematiche specifiche, come per esempio la connessione tra corpo e lavoro, tra corpo e cura, corpo come strumento della liberazione, anche molto presente nelle pratiche artistiche che presentiamo è questa ricerca verso le nuove modalità in cui si costruiscono le comunità, e credo che è una ricerca molto presente nelle arti performative d'oggi, cioè proprio trattare il performativo come spazio in cui il gruppo delle persone si può riunire e immaginare i diversi modi di una convivenza sociale. Questo è molto molto presente. E il programma è vastissimo. E dove si può consultare, diciamo, l'elenco degli spettacoli del festival, e se secondo te c'è uno spettacolo in particolare che racchiude lo spirito del festival? Tutti i materiali che riguardano il festival si trovano sul nostro sito www.santarcangelofestival.com. Lì si trovano sia le date, cioè proprio il programma giornaliero, informazioni sugli artiste, spettacoli. Credo che stiamo anche per partire la biglietteria proprio oggi. Per quanto riguarda i spettacoli specifici, è sempre una cosa molto difficile da dire, perché io sono molto legato a tutto il programma, anche alle artisti invitati. Sicuramente il lavoro di Rebecca Chaillon, che viene per la prima volta in Italia, è molto importante, molto particolare. Questo di Julian Hetzel, questo di Ligia Lewis, Dana Michelle. A me mi viene difficile da dare il consigli, perché credo che ognuno di noi cerca qualcos'altro. Credo che con il programma che abbiamo costruito incontriamo le diverse necessità del nostro pubblico.